Sono Mirofia. Beh, abbronzato ti sei. In ombra, sempre in ombra. Oggi c'è il sole bello, caldo caldo. E tu hai assoriato ti sei? Sciamani. Avasso che non va ancora assorientimi. Non vedi stamattina? Alle poste, a pagare, all'Eurospin, poi sono andato all'assicurazione ma era chiusa. Allora hai preso un bel lounge? Un mezzo poco lì, mo là. Sei rilassato male sempre tu, non hai preso le istruzioni. Lascerà domani pure. Ui, per carità. Però vammi in giro, lascio di ciocca, Bene, sto uscendo. Sì, prova. 1, 2, 3, prova, facci. Sì, bene. E che radio è quella? Stavo cambiando tutto, stavo, capito? E li sto provando adesso. Ah, te l'hai cambiato il mobile? Ah? Il mobile l'hai cambiato. E allora? Certo. La stessa scrivania ho messo. Ma è più corta questa. Come più corta? È più stretta, anzi, non più corta, più stretta arrivare. Mi dai troppo male, io. Allora tutto quanto non c'è stata la roba che ci avevi sopra. Vai a mandare in chat, questa va più bene. Lascio questa che fa troppo bene. Okay. L'importante è che stia uscendo bene, dai. Già sei scendi bene, è la bulla. Chi dà già la manna, però ci avevi un bel di cosa sopra. Dai. Allora metto a posto tutto qua, già rientro dopo. E che è acceso questo? Chi è che è fischiato? Buongiorno signor Graziano. Ciao Marino, ben sentito. Tutto ok? Tutto ok, grazie, tutto a posto. E tu? Tutto ok? Tutto ok, c'è la Gio Maria ma sta sistemando la scrivania. Io sto spazzolando, stavo, ma non c'è nulla, c'è un po' di preparazione, tutti inglesi, francesi, no, niente da fare, non è da me, no. E adesso la gente oggi sarà a fare la spesa, in girella, magari domani. Se ne vanno al mare, capito miai? Voglio roba poco e roba domani, domani mattina se io voglio iniziamo a fare qualcosa. Tagliamo un po' di erba là, così terminiamo. Bene, Meda, avanti. Anche io domani mattina devo scendere in campagna, così mia figlia ripassa il decespugliatore, perché l'aveva accorciata, adesso vuole fatto più bene, no? Tagliata proprio a raso, a fase veloce. Esatto, ma io devo solo... Dove sono ripassare, capito? Devo solo ripassare. Così ci facciamo qualcosa rosso domani, se no c'è il caos. Mi ho sistemato un po' di roba poc'anzi, dopo che ho fatto un'oretta di Morfeo e così via. Bene, Meda, avanti. Ehi, a chi avanti, con chi sei vagaffatta, va a torrazza, non hai compreso, che la terra è umida e dunque prima che si allunghi, adorra, conviene dare un'altra passata. Allora, sale come l'uva, sale, la lesione, basta un po' di sole, sai come sale, via, per carità, ma piano piano si taglia, un pezzo oggi, un pezzo domani, già passa. Quando era alta ci ha messo un paio di ore il sabato che siamo scesi, era pure tardi, e poi ci ha messo domenica mattina un paio di ore, un 2 orette, e poi un 3 ore la sera, là, un 3 orette buone. e l'ha fatta tutta. Dunque, penso che domani, una mattinata, se la finirà. Perché adesso è corta, non è lunga. Infatti, gammini e taglietti, compresi. E io una parte l'ho tagliata, l'ho fatto con l'erba erba, capito? Tipo prato verde, erba sintetica, erba selvatica, che già va bene. Adesso è al tempo brutto, in inverno la faccio, le do una bella passata di motozappa, una motozappa, una bella girata, poi prendo una tavola sotto misura, forse leggera più corta, la leggo alla motozappa e io lo rullo, capito? Io lo faccio tutto in piano. Poi una volta che cresce l'erba, le passo la già erba e ciccia, le faccio tipo prato verde, capito? E erba, senti, erba selvatica, ma già con tagliata a filo già la bene. Sì, hai consigli dei vecchi, stai ascoltando. Faccio un altro pezzo da parte, è un pezzo piccolino io. E poi ho terminato, dai. Ehi, ciao Marchisio, ben sentito. Hai schiacciato a Marino. Ehi, vabbè, sei a due passi da me. Ehi, no, io non è passo molto zappa, la passavo quando piantavo, oramai non pianto più e la taglio solo l'erba, però la faccio a tipo prato inglese sembra dopo, capito? Come stai dicendo tu, però molto zappa non è basso. Oh, quando piantavo già la passavo, non ho più passato. Aspetta, vai Bacchi, Bacchi! Bene sentito, avanti. Riprendi tu. Avanti, Bacchi. Che senti, Marino? A me hai lanciato, ma dove sei, a casa o sei in macchina? Non mi ascolto, Marino. Marino non mi ascolta, grazia. Adesso ti ho ascoltato, avanti, Bacchi. Ah, secondo la cosa allora. E sono... capito perché non sono verso di te. Però la modulazione è bella pulita, bella chiara, capito? Va bene comunque, dai, a momenti magari vai via, a momenti torni, ma la come modulazione è bella limpida, pulita. E ti stavo dicendo, grazie, no, non cosa fa la passo d'inverno, no? E per dare una rullata, poi lo passo una volta, poi non lo passo più, siccome non è a livello adesso, non passo la erba, capito? C'è qualche fosse in mezzo, per quello è. Io lo passo l'inverno, poi io rullo e ho terminato, boh, e non lo passo più, capito? Avanti, va chi vediamo se trasporto bene adesso. Ehi. No, per farlo bene devi chiamare Giuseppe, col trattore, ti passa il trattore, lo fa in piano, bello bello. Poi ci passi l'altro con la tavola. E anzi, ce la faccio. Anzi, Giuseppe, mi fosse domani mattina dove chiamato, se non vuole, se mi vuoi fare qualcosa, le chiedo se c'è un rullo invece, quel rullo che uso per rullare tipo schiacciapietre, no? Capito? Già io lo faccio passare, poi le faccio passare il rullo, poi già crea mano adesso però, mi conviene in inverno, con il terreno è bello magnato e ciccia. Bene, Meira, avanti, siamo graziano. No, io prima quando piantavo per dire le fave, il battato, c'era la motozappa, una volta che non ho piantato più niente, e taglio solo l'erba e non mi interessa proprio, manco per idea. Quando vedo che ricresce l'erba, che si sta sollevando un'altra passata e rimane sempre prato verde. E già va bene, dai. Già va bene, così volevo fare io, capito? Così volevo fare io. Ma chi va, c'hai la 27 accesa, c'è per caso? Non ho capito, cos'è che mi stavi chiedendo? Se c'hai la 27 accesa, vicino a te. Ce l'ho accesa io la 27. Guarda come lo ascolti, aspetta, attacco il microfono. Hai ascoltato, Bacchi? Sì, io che ti ascolto. Bacchi, aspetta, mi assento due minuti che vado a fare l'insulina alla zia di Paoletta. Grazie, ok, dai, ci vediamo dopo, sei in casa, dai. Mi interessava solo un controllo e basta. Ehi, io già ti ascolto sulla 27. Ti ascolto sulla 27 benissimo, limpido e chiaro, recoaro, avanti. Graziano, dimmi, adesso ti ascolto. Cosa detto? Capito, ma chi è? Si è spostato, torna subito, Graziano. Ecco perché non risponde. Stai usando l'MP4? Sì. Ah, capito. Stai usando l'MP4, va bene, si sente la amplificazione, benissimo. Questo è il tuo momento, mi dici come lo senti, adesso è, a quanto è? Boh, mezzi a 5 se non sbaglio, 5 6. Adesso lo aumento e mi dici come ti senti, come mi senti, aspetta. Acceso io, no, non si sentito, no? No, no, io stavo girando, poi ho fischiato, è stato graziano, tutto qui, avanti. Capito. Tu non è ancora in giro col cane? No, sei ancora in giro col cane, Tore? Perché lo porto la mattina e poi lo porto la sera, è giusto così. Anche il cane bisogna fare cose sue. Bene, bene, graziano, sei tornato, no? No, è impegnato. Bene, dove eri in campagna, Bacchi? Sì, in campagna ero. Magari ne avevo voglia stasera, poi. C'ho la madre di capo qua. Tutto disgraziato sono oggi. Lo sai, anch'io sono andato stamattina con questa maledetta. Adesso ce l'ho leggero, ma adesso c'è il tempo lì. Deve c'è il tempo sicuramente. Non ho preso nulla perché sennò se comincia a prendere le bustine, guai a Dio. Come capogiro, non so spiegarlo. Boh. È la giornata, stupida, un po' di caldo, ma speriamo bene, dai. Sì, adesso stavo cercando un capo io per farti vedere un po'. Cazzo, se non andato a finire. Ma senti, ci sono 1000 capi, ci sono qua dentro. 1000 me ne sopra, sono imbrugliato uno con l'altro. Insomma, hai fatto mezza centrale, peggio di casa mia, dai. Hai visto il caso che ce l'ho me? Mezza centrale, no, io mi stasera ho chiamato un po' dentro, mia moglie è scesa, ha passato a fuoco, tutto quanto, tutto va basso, sa, se non scendi la polvere o dall'altro ti ci mangia, capito? Sì, ma adesso bisogna che sistemi un po' questi capi, è un casotto di capi. Ho controllato con lo strumento e è sempre 1-1, andava bene. Attenzione lettore, poi sto usando la direttiva o va più? Marino, mi ascolti? Certo che ti ascolto. Mi hanno messo le colonnine. Parla a vedere. Controlla in questo passaggio, 1, 2, 3, prova, avanti. Oh, io, guarda, ti faccio sentire in 27. Parla che ti faccio sentire in 27. Controlla in questo passaggio, 1, 2, 3, 1, no. Il Nesta vera fischia io, se parlo, se accendo a 27. No, vai benissimo. Va bene, sì. Via, rimane più amplificato. Sì, ce l'ho anch'io, ma ce l'ho staccato le due cassette. Ce l'ho solo collegato a quello che ti ho detto stamattina, no? Che prima ce l'ho attaccato all'altro, adesso l'ho attaccato al microfono. No, adesso ho messo le due colonnine esterne, come ti ho detto. Funzionano bene anche qua. Sì, perché ti aumenta la potenza, non so quanto. Io ho lo scanner inserito e ogni tanto se ne va su questa frequenza e fischia. Per quello, allora, la basta appena, e sta sempre girando. Va benissimo, Bacchi, va troppo bene. Io sono con quello che ho fatto io, col carretto che ho costruito io. Andate, va benissimo. Ma stai utilizzando la quella bianca oppure quella che hai fatto tu? No, quella in terra. Terra, no, niente di Gran Premio, nulla, quella che fa in terra. Ci va diretta a Porto Torres. Ah, vabbè, io sto usando quella stessa, l'altra, come si chiama? Quella che è Mato Antonello, va. Va benissimo. L'altra c'è il capo grosso, mi dà un fastidio per attaccare, non ho un'idea. Bisogna che mi decida di andare da Tonino a comprare un po' di capo, questo grosso lo dimmelo tutto. Aspetta che ti faccio ascoltare l'altro apparecchio che ho a fianco, però l'antenna utilizza quel tubo che hai visto tu che c'è sopra, quel tubo autocostruito, aspetta che passo qua e attacco l'altro. Dove arrivare è molto basso, più basso di questo. Dai, siamo qua. Vediamo se Graziano si è affacciato. Graziano. Attenzione, Bacchisio. Sì, avanti, Marì, non cambia nulla. Ma la potenza è la stessa, no? È leggermente più bassa, dai. No, come segnale è uguale, la modulazione è più amplificata perché la sto amplificando io, se no aspetta che la spenga a vedere un po'. Controlla in questo passaggio, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. E questo passaggio sei più basso. Per forza è più basso. Sto utilizzando quel tubo che qua fa mi ha fatto Luca l'altra volta, che ce l'ho sulla antenna, capito? E sto utilizzando la pelle che quello che usiamo noi in macchina, dai. Hai copiato, ma chi? Ehi Amarillo, hai detto che è basso di segnale e basso di modulazione. Sì, ma sto usando, hai capito cosa sto usando? Sto usando l'apparecchio che uso in macchina, come antenna quella che c'è sul tetto, che quello che avevamo fatto Luca col tubo. Ho capito, quello in verticale. Ok, utilizziamo questa, dai. Sì, va bene, dai, usa quella lì. Ehi, no, perché la direttiva l'ho collegato allo scanner, capito? E allo scanner sta sempre girando. Sta girando lo scanner. E sempre girando, è tutta la sera in movimento, E fa bene un po' di movimento, fa bene. Graziano si è rientrato. È impegnato. O sta preparando la cena per stanotte, o si sta organizzando per domani sicuramente. A me mi sembra che Paoletta l'ha catturato e l'ha messo sotto. Vediamo se c'è il signor Tore. Attenzione Tore Squalo. È andato con la lumacca, quello lì. Sarà col cane ancora passeggiando, meglio così. Meglio gai. Avanti, Bacchi. Obia! Ore, avanti! Ciao Battisio, ciao Marino! Buonasera, come andiamo? Bene, tutto bene! Tutto bene, meglio così. Agastiamo bastonato, vai! Ah, so che arrivi da va, va! Non lo sai che io fosse pure il centro ginecologico! Perché ti sono un po' di QRM appresso che stai portando. La manutenzione è forte, ma c'è un po' di QRM. Cosa stai organizzando per domani, grazie a scommetto, no? No, per domani già ce l'ho già la corna da scendere in campagna. Capocollo. Pancetta. Melanzane, peperoni, tortellini. Cosa vuoi mangiare? Salsiccioni. E la poi campagna vignera, gioca, beh, farmi cugnata, un boccone, che io non ne mangio. E io mi mangio le fettine di cavallo. A chi? Ehi, Graziano. Buonasera, Leto, ben ascoltata. È entrata dentro, gli hai con il trasso in mano, sempre l'uccidente, il mare Generentola. Secondo me mi dà per la poccia, ma chi so, anche io andrò a recuperare, ma i cazzi cucchiamo. Ma chi? Ah, caggiuto sei. Hai giunto, Graziano. Cazzo sempre vendi, ma non li toccano a tu. E allora, è un trucco che ci hai imparato, ma non mi butti, no. Oh, tutti i matessi insomma, grazie, non preoccuparti, non è solo la signora, sono tutte le stesse, non cambia nulla, non vedo da il vanno. Avanti, Bacchi. Sono tutte allo stesso stampo, grazie, non c'è male nulla. Sono tutte uguali queste donne, non si li può fare né caccia né lama più. Dopo ti butti in buco, lasciati che, ma ti stavamo a piccoli denti, vieni a mantenermi la cara. Compresciola, ti futti di burro. Si impari, ne ha approfittato quando è giovane, allora soffri. Ma io sono salito al terzo gradino, mi. Oh yeah, la sua intenda le cinta. Ma un buon gustaio, sì, grazie. Buon gustaio, vero Bacchi? Graziano, è terribile. Al terzo gradino è andato. Ma grazie, dal 3 e poi basta, altro che te dalle città, l'ha giudito, chito, mi ha detto, e poi non così. L'ha giudito da voi, la cara non l'avevo mai provato. Si la si butta la cara da voi, grazie, non si sa cosa succede. No, che già era amante Sarvaconi. Adesso che Graziano farà bravo. Farà bravo di farsi male, Graziano, no. Ui, se mi intendi, devo essere farla da me di butti. Se ti intendi, ti si può, ti si può fare la Sarvaconi minimo. Ui, Avanti, Bacchi. Tanto Graziano, sai cosa usare mantieni a casa? A chi fende il gallo? E allora, a chi dici che c'è si tremureggia tutta, tu e chi la tremureggia, caraglia è femma. Uia, già ne sai dove si sce, Graziano. E allora, a te mi era capitato tra valenni, che c'è la signora mi fa, sì, di orune, Ida. In Viale Caprera abitava ed era andata in Bianchinanno e mi ha detto aspetti che lì su me lo faccio io che sono più alta, a chi va arrivare io su io con la cara, no? E chissà mi l'ha fatta apposta a me stessi, chissà la voce era senza mondanda a coccia bestia di cui vivereva a chi. Ti stava provocando me a vedere dove arrivavi, grazie. E allora apposta me l'ha fatto ed è chi mi ha baciato e da baciava un gambo e bene mi sta uscendo e dico già vedo bene, tutto bene, mi qualche macchietta là c'è anche là. Maledetto, oh già, mi serve di bisciare la risata, avanti da chi? Sì, ma Graziano mi dia, lo ripasso il pennello perché lì non è fatto bene e uscì e dove c'è la rocciata. Ha capito cosa vuol dire? E alla fine che sai mi sei uscita da che cosa? Alla lì no, ma già uscita da voi. E allora lui dice, no, là lo devi ritoccare di nuovo che c'è una strisciata e non l'hai passato. Da lì non si vede, ma già lo vedo io da qui. E da dice, no, vai qua, io no, un pochettino più di là. Sempre provocando, così, ha detto questo. E allora, la città va a V2 invece. Grazie, l'ha fatto come lo spazzacammino, no? L'ho presa, alla fine mi avete riuscito. E allora, invece un'altra dice, si può essere un divano, Mari. A coccia a me che mi dice, fatti un coso, no, che non riesci a vederlo, vai a baitarlo, tu ci lo vedi. Ed è un inoki, più sopra della guscia, no, a parte in dritto della guscia. Ed è, boh, mi pare un puntino, da sta stata tutta la valletta, no. Aveva una brugolina, forse, voleva che tu la schiacciavi, capito? E allora, da poi già mi ha schiacciato. Ma sai cosa è stata la valletta, grazie, chi era caldo? Capito, era caldo. E allora, una stavolta va tornata a provare la giubbottina a parola, busca, eh. Che mi aveva regalato a me figliura, ci avvide. Vabbè, ma la figliura era minchione sicuramente. Ah, ok, me l'ho portata io a mia figlia, con la scusa che mi aggiudava, no? Ah, no, pensavo che Edo abbia un figlio, un preso, Pariso, ci è rimasta male sicuramente. Scusa, non va bene così, no? La seconda volta sì, l'è andata in bianco, l'è andata. Gusto per la biglietti. Sì, per forza no. Una volta che prova la prima volta, pure la seconda va bene. Avanti da chi? Seguito di piacere in furra, grazie. Lo sai, la cosa, uno tira l'altra a me. Lo so, invece un'altra mi ha fottita che mi ha pure bruciato sia il materiale che il travaglio, la medaglia del travaglio, da. Chissà prima mi bagava da poi piano piano, le merende va vedendo, mi ha pigliato all'inca e inizia con le battutine, no? Hai compreso? Ma conta cosa, dai, tu e va bene, la proviamo, dai. No, a chi sa proprio no, e da qui non mi piace all'immanco. No, la gente va bene, quando va a retina, allora mi chiami, mi lo fa sapere e venga e continua il lavoro. Ho lasciato il materiale lì, non mi ha più chiamato. A chi si la sgamata, io vi l'ho fatto comprendi. E poi l'ho trovato un paio di volte e mi diceva, quando viene a casa, quando c'hai i soldi? La stessa denaro voleva contro la merce e tu dovevi approfittare, grazie, peggio volte non hai approfittato e pare che ci sta bruciato, avanti Bacchi. No, ma grazie, non lo via. Buon gustare. Grazie, vieni molto benichino. No, a me mi si piani di denaro, busta. Mi ha già fatto un mare di denaro travaglio. Va bene la prima volta, dai, dopo ti dava i soldi piano piano. Marì, questa è la questione di Rita che conosci tu. Che hai deciso per l'altro fare il negozio. Io capi me, guarda, ma chi mi sta facendo la parola alla bocca. mi hai la parola nel mezzo. Sì, ringraziamo, se veniva anche a Dipa, no? Abbastanza in gamba, ma lì non la conosce benissimo. Veniva al negozio, se mi serve la stufa, ecco, va bene. Lo sconto, ti faccio lo sconto. Poi mi fa, dice, ma dice, tutti i soldi non ce li ho. Io la metà facciamo la... ha detto no, io quando vengo il rappresentante non li do con vero, li do con denaro. E già non credo, no, ma a me poi la volta, a me proprio quella volta lì, mi si viene di denaro, cazzo, se non mi ha occupato nella mia, perché tanto lo sapevo che era così quella lì, capito? E ha detto, ma poi ci sta avuto a viaggiare di denaro e mi ridassi, invece me l'ha dato la metà. E la sanità non aveva denaro, allora voleva a conto merce, compreso. E ha detto, no, a me mi servono i soldi, e allora invece di venire qui a continuare il lavoro, vado in un altro posto dove faccio il lavoro e mi dai i soldi. A me mi servono. Grazie, ti volevo dire, ma qua sei seduto o sei in piedi? Perché la motorazione si è pulita, ma sai, ti stai portando molto quei remi appresso. Seduto sono in cucina, sarà perché c'è il portafrutta in direzione dell'antenna. È un po' strano, non ti ho mai sentito così. Ma chi si è pulito, proprio limpida, meglio di una telefonata. Avanti, ma chi? Ma va bene però a me, Graziano, io l'ascolto bene, Graziano. E lui è col gommino però, così è Graziano, col gommino sì. Con il portatile, con l'antennina sua, sono quella fine flessibile. Adesso ho spostato la mano, sono al bordo del tavolo, meglio mi senti male. Adesso la tua modulazione, adesso sì, adesso è pulita, ma ti stai portando... Sì, la modulazione è chiara, ma ti stai portando molto quel remme. Adesso va benissimo, caspita. Perché la puntata sul tavolo c'è un vasoio con la frutta e ci sono le banane appese, c'è un gancio che si appendono lì, no? Per non cucinarsi se le mie se la appoggi sull'altra frutta. E prendeva in pieno proprio tutto il mazzo delle banane, sarà per quello. Adesso l'ho messo dall'altra parte ed è più libero. Per quello ogni tanto vorrei troppo le banane qua, che stavo camminando, le do ieri, eh no? E allora, amici, ce ne sono rimaste, una, due, tre, quattro, cinque ce ne sono rimaste, sette frutti giorni. Vedi che tu le prendi crude e piano piano le fai cucinare, così è. Io le compro crude, quello, profitto un gioco di moda, che viene già otto attaccate, crude le prendo, e le metto nel portafrutta, capito? In giro di una settimana incominciano a cucinarsi e adesso sono diventate quasi tutte gialle, capito? E le prendo così perché fa anche bella figura, capito? In cucina, quando sono crude, no? Ah, che burra va! Però le prendo apposta così, crude. Senti, ritornato come poc'anzi, Come poc'anzi, va bene, dai. Va bene così, perché molte volte quando tu le compri, secondo me le compri, arrivo alla mia casa in grosso e le tengo in frigorifero, e ce le frigo e sono già cotte, invece come sei già tu, le prendi crude e le fai cucinare mano a mano ogni giorno. Anda bene, avanti, Bacchetta. Poi quando sono crude, addrizzarle è più duro, no? Addrizzarle quando sono duro, verdi, è più duro, è per quello che le compro che la siano verdi. E allora, guarda che scendevo a Cagliari alla nave che arrivava dalla Turchia e ricaricavo un rimorchio e poi le portavo a Predaneta da Oscar dove c'era il deposito della Gondrand, c'era anche il deposito delle banane e poi gli facevo anche la distribuzione, Sassari, i paesi circostanti, là diciamo, l'ubbi lontano era... Nuaro, no, Ozzini, più lontano, tutto l'altro è tutto zona di salsa, gliele consegniamo. Qui ha messo di banana, e gli danno i buoni, guarda quanto li mangiamo, un bei. E tu la drizzavi anche, no? E allora, e poi mi ne regalava a cassetti, la regalava in campagna, in casa, e beh, un po' di volte mi rivendia pure, se no mi si guastavano. E non facevi bene, già sono buono, dai. Allora ti bacchi. Ehi, così proprio. Bene, io ne approfitto del micro per salutarvi e passarmi in QRT causa merendero, ora della mala sorte. Ciao Marino, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere, ce la vediamo, ce la sentiamo. Idem con le patatine per il Graziano, ciao Graziano, buona serata, buon questo ancora. Saluta la signora e non mantenere la scala, lascia stare senza mantenere la scala. Sennò il Camotti deve andare. Ok, ok, causa la comunicazione, riprendo io, ciao, va che ben sentito. A domani se coincide, dai. Anch'io stacco, Graziano. Stacco anch'io. Ciao Graziano, ben sentito, salutoni la signora. Ci sentiamo domani. Ok, saluto tutti gli ascoltoni, anch'io faccio quelli, dai, ciao ciao. Ehi, ciao a tutti e due, buona cena, a domani, ce la risentiamo. Buon proseguimento a tutti e due. Ciao Bacchise, ciao Marino. Ciao. Ok, ciao ciao.